Buongiorno a tutti, ci troviamo con la scultrice Jessica Carroll nella sede della sua mostra a Torino. Allora Jessica, vuole parlarci di questa sua mostra, della sua organizzazione, della sua struttura? Non è una mostra antologica, però in effetti ci sono dei lavori di anni passati, magari un lavoro del 1988 vicino a una cosa molto più recente, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che già alcuni mesi fa avevo avuto modo di tirare fuori, di rivedere tutto il mio lavoro. Per cui diciamo questa mostra è. Non è antologica, però è una mostra che fa abbastanza un compendio del mio lavoro in generale. Si può dire che la mostra sia organizzata attorno ad alcuni cicli, cioè quello degli animali marini, quello delle api? Sì, sì, in qualche modo sì, nel senso che tutto sommato anche io poi ho dovuto scoprire che alla fin fine ci sono stati dei temi dominanti, diciamo, che magari poi sono cominciati ad emergere già, per esempio, in quel disegno lì che è del 1988 ed è proprio il mio primo lavoro, praticamente, il mio primo lavoro professionale, perché è in una sede museale al parco del Lago di Vico. Vicino in provincia di Viterbo. Per esempio lì già in primo piano si vede che c'è un'ape. Poi dopo il lavoro sulle api, diciamo, è diventato abbastanza principe nel 1997, quando ho cominciato a fare scultura, perché il primo alveare di bronzo l'ho fatto nel 1997, quindi più o meno 10 anni dopo da quella prima ape lì, e poi nel corso del tempo ho continuato a fare le api in tutti i modi. Un po' come un leitmotiv. Sì, esatto. Nel corso della sua produzione. Sì. Parliamo di simboli. Che cosa simboleggiano le api e le anguille? Ma in realtà non è una scelta così basata sul piano simbolico. Per quello che riguarda, io dico sempre che il lavoro di un artista visuale, perlomeno sicuramente il mio, così come nel mondo onirico, diciamo, ci sono dei temi o dei simboli, se vogliamo, che poi se uno sta lì delle volte che fa un po' un lavoro sui sogni, per cui si ricorda e li scrive, si rende conto che nel corso del tempo ci sono delle storie magari parallele, esattamente come ci sono poi nel lavoro di un artista visuale, che vengono fuori e seguono una loro storia, per cui nel mio caso può essere l'ape che quel giorno lì si collega a quella cosa, però non, dal punto di vista proprio del simbolo non ho mai fatto un lavoro di questo tipo, non ho mai deciso che quello lì è un simbolo e che quindi io lo uso per esprimere determinate cose, cioè tendo a cercare di far cantare loro più che. Quindi anche la scelta spesso della forma sferica è per un motivo più che altro, diciamo, plastico più che simbolico? Sì, assolutamente sì, non c'è mai da parte mia, ovviamente io grazie a Dio sono abbastanza colta, ho passato tanti anni a studiare, ho studiato molto l'etologia, ho studiato un pochino la filosofia, ho studiato la psicoanalisi, eccetera, eccetera, e quindi alcune cose le conosco, però poi in linea di massima tendo, quando devo fare un lavoro, tendo a dimenticare e a vedere un po' che cosa, cioè l'ispirazione, diciamo, avviene in genere o attraverso la materia, nel caso della scultura una cosa abbastanza frequente, oppure attraverso delle immagini che arrivano. Parliamo un po' della materia. Allora, prima di tutto le sue opere danno prova di una grande versatilità nell'uso di materiali diversi e poi questa versatilità si manifesta secondo me in due modi. La prima è appunto l'uso di tanti materiali diversi e il secondo è il modo di trattare i materiali, cioè a volte il marmo ad esempio viene plasmato e lavorato con grande maestria per creare opere fortemente mimetiche come il microscopio, mentre altre viene lasciata la materia grezza quasi per farsi sentire la bellezza proprio del marmo grezzo così com'è, la materia pura. Quindi volevo chiederle appunto qual è il suo rapporto con la materia e con i materiali. Ecco, per esempio nel caso del microscopio, lì era un lavoro, se vogliamo, invece proprio simbolico, nel senso che io ho voluto fare un microscopio di marmo, quindi dopodiché la scelta del materiale in quel caso è stata di farlo scuro, però non nero nero, quindi non sono andata ad usare un nero belgio, che oltretutto è un materiale molto fragile. In quel caso lì la scelta del materiale è stata più proprio plastica, perché il nero marquinia di cui ho fatto il microscopio è un materiale resistente, eccetera eccetera, e l'onice, vabbè, semplicemente perché è bianco, non per un'altra ragione. In quel caso lì è stata una scelta abbastanza empirica, così come nel caso del cannocchiale, un pochino più complicata. Il cannocchiale io volevo che fosse un cannocchiale trasparente, questo sì, e volevo che fosse modellato. Per cui, per esempio, non potevo scolpirlo di plexiglass, perché il plexiglass si può tranquillamente scolpire, però io volevo che avesse le ditate del modellato, e quindi lì ho penato per più o meno un anno e mezzo prima di riuscire a trovare il materiale giusto, che è una resina poliuretanica importata dagli Stati Uniti. E in realtà per riuscire a fare quel cannocchiale lì ci sono voluti più o meno 2 anni di ricerca. Anche così, anche in Piemonte mi sono trovata davanti a chimici in camice bianco che mi dicevano: ma però noi veramente, perché non è che non esistano delle resine trasparenti, come c'è il metacrilato, c'è il plexiglass, c'è da 50-60 anni, ma in Europa non esistono resine trasparenti che siano realmente trasparenti, uno, e che lo rimangano, due, perché sono tutte gialle. Allora, in questa mostra troviamo un microscopio puntato su un'ape, quindi un mondo minuscolo, piccolissimo, guardato però con attenzione. E troviamo un cannocchiale, quindi quasi un invito a fare dei sogni di cristallo e di guardare le stelle, sognare le stelle. Quindi troviamo l'attenzione per il mondo minuscolo e per l'universo, l'immensità. Quindi parliamo un po' di rapporto tra le dimensioni, cioè tra il macro e il micro, tra l'interno e l'esterno, tra l'opacità e la trasparenza. Beh, sì, infatti mi ha rubato le parole di bocca, perché in effetti c'è per esempio questo lavoro che si chiama Il sogno di Berni, è andata così, perché poi più che dire qual è il finale, penso che sia interessante sapere come si è svolta la cosa, che io stavo facendo questo cannocchiale che per l'appunto si chiama Desiderio, nel senso delle stelle, e che volevo trasparente proprio perché guardasse lontano, però guardasse nella trasparenza. E quindi nel guardare lontano e nella trasparenza, in realtà immediatamente è una metafora, diciamo, del guardare anche nel corso del tempo, cioè guarda al passato anche, guarda al ricordo e guarda soprattutto al desiderio. Allora la metafora del cannocchiale era basata sul fatto di sapere esattamente cos'è che uno desidera. E poi contemporaneamente quello che succedeva era che volevo che fosse appunto plasmato su una forma antica, per cui la canna del cannocchiale io in realtà l'ho fatta con questo metodo preistorico che si chiama colombino. Si prendono dei pezzi di creta, si fanno dei salsiccini e poi si crea la forma, man mano facendo in modo che i salsiccini combacino, che non ci sia aria, eccetera. È il metodo proprio con cui facevano i vasi di terracotta nella preistoria, non è cambiato molto. Solo che è un metodo un po' lungo e noioso, e soprattutto per fare una canna così lunga e stretta, stavo lì che facevo sto colombino, così. Poi nel frattempo Berni, tanto per cambiare, che mentre io lavoro lei sta sempre lì che dorme, acciambellata, perché poi il cane acciambellato è anche un altro dei temi che torna nel mio lavoro. E allora ogni tanto, nella noia di questo lavoro così un po' ripetitivo, mi scattava una sagomina di un ritratto di Berni che dormiva, e da questo è nato questo lavoro del sogno di Berni, che però è basato su un paio di teorie, di cui una è una teoria aborigena australiana che sostiene che il mondo è formato dai sogni degli animali, quindi che mi piace molto perché c'è già questa trasposizione in cui diciamo l'uomo diventa un po' meno importante, perché comunque intanto gli animali sognano, il secondo formano il mondo, quindi non è una roba mica da ridere. Una è quella, e un'altra invece è una teoria di un personaggio, un biologo, che è un pochino uno dei miei maestri, che si chiama Adolf Portman, ed è un biologo morfologo, cioè studioso delle superfici, che però contemporaneamente era uno dei personaggi che partecipavano a queste riunioni che si svolgevano in Svizzera, fondate da Jung ad Ascona, nella casa inizialmente di una signora che ospitava tutti quanti, e si chiamavano Eranos, è una cosa abbastanza importante conosciuta dai filosofi. Eranos vuol dire luogo d'incontro. In questo specie di castello vicino ad Ascona si sono incontrati dei personaggi scienziati, filosofi, matematici, biologi, filosofi, l'ho già detto, psicologi, e per cercare di creare diciamo una sinestesia fra le varie ricerche. Uh-huh. E questo Adolf Portman ha scritto vari libri, di cui uno si chiama Le forme viventi, dove all'interno di questo libro è contenuta questa teoria, che però stranamente è una teoria che torna in per esempio è la stessa teoria, è stata tirata fuori da un musicologo che però guarda caso anche lui seguiva i convegni di Eranos. E che è semplicemente il fatto che le prime creature viventi che hanno vissuto sulla Terra, una teoria sull'evoluzione, cosmogonica un po', ma sull'evoluzione, e erano trasparenti, le prime creature viventi sulla Terra erano assolutamente trasparenti, e che d'altra parte se vediamo le creature abissali per esempio sono trasparenti, e queste creature erano completamente trasparenti perché non avevano necessità di distinguere l'interno dall'esterno, perché non entravano in relazione, perché erano pochissime, non si incontravano. Man mano che la vita sulla Terra ha cominciato a svilupparsi, le creature trasparenti hanno cominciato a diventare di più, si sono cominciate ad incontrare, e nella necessità di relazione hanno dovuto differenziare l'esterno dall'interno, quindi proteggere l'interno e l'interiora proprio. Mm-hmm. Pensi a quei appunto pesciolini abissali dove si vede il cuore, i polmoni, eccetera. E quindi è così, è un paradosso, un ossimoro in cui proprio per poter entrare in relazione in realtà si diventa meno trasparenti, cioè ci si nasconde, dove la relazione però deve tendere alla trasparenza. Uh-huh. E lì torna poi il lavoro al cannocchiale, perché in fondo certo, il desiderio è anche un desiderio di incontro. Allora in questa chiave possiamo dire che opere come Deep to the Roof o Persefonia Virdis sono una ricerca del cuore, della materia, del portare alla luce quello che c'è dentro. In qualche modo sì, soprattutto per quello che riguarda Deep to the Root, che è praticamente una delle mie prime sculture. E Persefonia Virdis non so nemmeno bene io che cosa sia in realtà, perché ecco come succede la dinamica del lavoro. Mi hanno regalato questi due pezzi di malachite. E allora io ero indecisa cosa farne, se lavorare la malachite stessa, e poi invece ho deciso di era talmente bella e intoccabile, diciamo, oltretutto per lavorare la malachite ci vogliono degli strumenti da gioielliere, diciamo, oltre a essere velenosa, tra le altre cose, nella lavorazione. E quindi ho deciso di invece inserirla in un'altra cosa lavorata, che erano queste due colonne di marmo. Poi dopodiché devo dire la verità che una volta fatta ho deciso che poteva essere una pianta. E allora, così come facevano gli esploratori del Settecento, i naturalisti, eccetera, eccetera, mi sono inventata il nome della pianta, Persefonia viridis. Persefonia perché per via del mito di Persefone, eccetera, quindi sempre il mito di Dioniso, perché in effetti c'è questo verde che è sommerso e poi riemerge, esattamente come il mito di Dioniso, che è legato, diciamo, ai cicli della natura. Parliamo di verde. In una mostra in cui in fondo i colori dominanti sono il bianco, il nero e il colore trasparente. Esatto. Spicca molto un angolo in cui ci sono opere dove domina il colore verde. Il verde ha un significato particolare, magari legato alla natura? In realtà legato alla natura, ma in un senso molto sottile e per me ancora tutto sommato abbastanza inspiegabile. Non so perché io sento così tanto il colore verde. E, da una parte, per quello che riguarda per esempio il pavimento verde Tisello, che non è legato più di tanto al verde nuovo, cioè sono due lavori fatti in momenti diversi, in situazioni diverse. Il verde Tisello, il pavimento verde Tisello, per esempio, vuole essere un po' un assurdo. Per esempio, il modo in cui è nato il lavoro del pavimento verde Tisello era che dovevo fare una mostra molto importante e il gallerista mi aveva chiesto di fare un progetto, e ovviamente mettendomi in crisi, e quindi io stavo lì che discutevo, che dicevo: ma perché, come faccio a fare un progetto? Perché se a me domani mi viene in mente che voglio fare una roba verde Tisello, che si dice, no? Verde Tisello per dire un'assurdità. E dopodiché ci ho pensato un attimo, ho detto: però invece in un altro senso il verde è una cosa, è il colore che io sento, e poi in qualche modo, volendo legarsi appunto a delle tradizioni mistiche in questo caso, non si sa bene perché, ma comunque ne parlava Sant'Agostino ed era poi ripreso da un altro dei miei maestri, che è Meister Eckhart, che era appunto un teologo tedesco, eccetera, e si dice che sull'alto del monte tutte le creature verdeggiano perché partecipano alla luce di Dio, come se la luce di Dio fosse verde, che poi questo sia perché o per come, però insomma c'è la metafora della pecora che sta sull'alto del monte, c'entra col discorso della montagna. Perché io non lo so, però si dice, ed è una cosa talmente risonante, talmente in effetti risonante con me, che sento così tanto il colore verde. Non dimentichiamoci che comunque il mio secondo nome, che è Carroll, è il cognome di mezza Irlanda, quindi è possibile pure che questo sentimento per il verde sia legato alle mie origini. Parliamo invece di 13 modi per guardare un merlo. Dunque, 13 modi per guardare un merlo è una scultura che, per cui ho impiegato più o meno 5 anni, perché è ricavata da un blocco unico e in più informe in origine, nel senso non aveva nemmeno il piano sotto, di nero belgio. Il nero belgio è uno dei miei materiali preferiti ed è un materiale molto difficile, perché intanto è abbastanza vetroso. Intanto posso dire che il nero belgio viene dal Belgio ed è in pratica come fosse un ulteriore raffreddamento, schiacciamento, eccetera, eccetera, di quello che è il carbone, quindi ha delle similitudini con il carbone. E è un materiale che è abbastanza odiato da tutti i marmisti, perché è difficile, perché quando lo lavori si scheggia, perché è assolutamente poco plasmabile, così come può essere il marquinio o come può essere lo statuario. Non è un caso che Michelangelo usasse lo statuario, perché lo statuario, per esempio, il lavoro, quello lì, la nutrice, quello grande, e quello è un altro principe dei marmi, perché è bianco P, che è quello che Bianco P sta per puro, perché è l'unico marmo bianco che c'è in Italia che sia realmente candido, senza macchie, eccetera, eccetera, costa una fortuna. Però per esempio la lastra è di Bianco P, l'ape in basso rilievo è di Bianco P, ma l'ape scolpita di statuario, perché lo statuario è un materiale resistente e plasmabilissimo. Per questo è un materiale principe della scultura. Il nero belgio, al contrario, è poco plasmabile, molto poco elastico, e si scheggia, e quando lo lavori produce una polvere che, prima di tutto, credeteci, è deprimente, perché così come lavorare il marmo bianco è un pochino esaltante, il marmo nero intanto puzza, perché puzza di zolfo, poi la polvere di nero belgio è un po' unta, va dappertutto, cioè, veramente come farci un giro in miniera. Quindi è stato un lavoro che ho pensato, ho cominciato, ho sbocciato, ho mollato, poi ho ripreso e ho fatto praticamente, tranne i primi quattro tagli l'ho fatto io dalla alla Z, ed è un lavoro ispirato a una poesia di un poeta americano, io sono mezza americana, che si chiama Wallace Stevens. La poesia ha esattamente lo stesso titolo, cioè 13 Ways to Look at a Blackbird, ed è la poesia, non si sa bene nemmeno la poesia, grazie a Dio, di che cosa parli esattamente, ma sicuramente è una metafora delle infinite possibilità di percezione della realtà. Allora è questo anche che allude il rapporto tra la scultura e le rappresentazioni sulla china, sulla carta. Sì. Arricchisce ulteriormente questa rosa di possibilità di percezione e di espressione. Sì, assolutamente sì. Le chine sono nate a seguito della scultura e in effetti dopo aver passato tanto tempo pensando e ragionando e immaginando i merli, mi sono accorta che riuscivo a farli molto bene a china anche di solo un gesto, quindi sono fatti con una tecnica un po' orientale, diciamo. E ho cominciato a sfornarne, perché comunque le infinite modi di vedere la realtà non sono 13, sono 13, è un numero perfetto perché è un numero eccentrico, eccetera, ma sono miliardi, e quindi probabilmente di qui alla fine della mia vita continuerò a produrre miliardi di merli. Così come legato poi, e non ancora però risolto, appunto alla percezione della realtà, che è poi è il motivo trainante un po' del mio lavoro, nel senso che quella la mia inchiesta, anzi come il titolo originale del microscopio è The Quest, cioè la ricerca. La mia ricerca è basata su questo, cioè non dico nemmeno sulla percezione della realtà, ma insomma su, sì, si può dire così, in un senso poetico, ma sulla percezione della realtà. L'alberino che si chiama Ombre Precise, in realtà è sempre trasparente, perché voleva essere, e ancora non ci sono riuscita, non so bene se ci arriverò, un oggetto la cui ombra fosse un'altra cosa. E quindi contemporaneamente alla ricerca della percezione c'è la memoria sempre dello sfalciamento, Un'ultima domanda: qual è stato in breve il percorso umano e professionale che l'ha portata fin qui, e in particolare a Torino? Assolutamente qualche cosa che deve essere legato al destino, perché io sono nata a Roma e mio padre è americano di origine scozzese e irlandese, e lo è, in più è nato in America, è nato fra l'Ohio e poi è vissuto in Wisconsin, quindi veramente nordici. E mia madre invece è mezza toscana, mezza napoletana. Io per cui forse può forse per via della, del, diciamo, della mia, del mio passaporto americano, del mio mezzo sangue americano, non mi sono mai sentita romana, cosa che mi ha permesso a un certo punto di abbandonarla, e che è difficile, è una roba difficile che un romano, una persona nata a Roma, lasci Roma. E in effetti ho cominciato a bazzicare Torino e il Piemonte moltissimi anni fa, proprio per via delle amicizie con alcuni scienziati, naturalisti, eccetera, eccetera. E guarda caso del Museo di Scienze Naturali, regionale qua, e con cui giravo in lungo e largo il Piemonte, un amico in particolare ornitologo che mi ha insegnato tantissime cose sugli uccelli e che poi mi ha presentato un altro amico ornitologo che però era apicultore. Quindi tutto è nato in Piemonte. E poi invece nel 2000 ho conosciuto Aldo Mondino, ho vissuto con lui fino alla sua morte, e però vivevo con lui nel Monferrato, e quando lui è morto io non potevo più tornare a Roma, perché ormai Roma l'avevo lasciata alle spalle, anche perché io diciamo che comunque i miei genitori vivono in Versilia a tutt'oggi, e la Versilia è il posto dove poi lavora il marmo, è un po' la mia radice, un po' l'unica radice, però in effetti fare Torino, Versilia, Roma diventano, non vivi più, quindi Roma ormai era abbandonata, e ho deciso di rimanere a Torino, abbastanza coraggiosamente devo dire, perché intanto ero praticamente vedova. E a Torino non ho assolutamente parenti, in più Torino si sa che è una città che è duretta, e quindi però comunque insomma io avevo una galleria con cui lavoravo, quindi ho basato la scelta abbastanza sul lavoro, poi avevo una casetta da consolata che mi ha consolato, e dopodiché sono rimasta a Torino. Adesso ho anche da un anno e mezzo a questa parte ho un nuovo amore, grazie a Dio, torinese, cioè siciliano veramente, però insomma che vive a Torino, e quindi ormai non ho, insomma, è la città che amo, ma era un destino, insomma, un'affinità elettiva. Va bene, grazie mille a Jessica Carroll. Complimenti per questa bellissima mostra. Da Torino è tutto, a risentirci a presto su Oltre Facciamo Londra.